i sentimenti più belli, da un'amicizia all'amore, nascono da un semplice gesto, una parola, un semplice sì. In cuore un ricordo per sempre, detto alla sposa all'altare, anche questo giorno speciale, quella promessa fu scritta così. Tu credi in te stessa perché sei forte, puoi farlo, non arrenderti mai. Se con un gesto tu regali il sorriso e la felicità, stringi una mano e non lasciarla mai, dire sì alla vita, sempre di sì. E nel momento in cui ogni promessa non ti serve più, solo pensieri molto fragili ti aspettano, solo un gesto d'amore, il valore di un sì. Fermati a guardare la vita, apprezza i momenti più belli, scegli fra un abbraccio e un bacio, poi condividi un semplice sì. Tu credi in te stessa perché sei forte, puoi farlo, non arrenderti mai. Se con un gesto tu regali un sorriso e la felicità, stringi una mano e non lasciarla mai, dire sì alla vita, sempre di sì. Nel momento in cui ogni promessa non ti serve più, solo pensieri molto fragili che aspettano, solo un gesto d'amore. Ti serve più, solo pensieri molto fragili che aspettano.